24, la storia. Bentornati su Radio 24, stiamo raccontando la storia di Ornella Vanoni, una grandissima artista con un carattere indomabile che con tenacia e intelligenza decide di cambiare la sua immagine agli occhi del pubblico. È una strada lunga, è tutt'altro che facile. Il pubblico si è creata una barriera. Lei rappresenta una classe sociale diversa. Così risponde agli studenti che la interrogano nel 1970. Senta, lei in genere si presenta come una cantante intellettuale, una cantante seria. E vorrei sapere, ha il senso dell'humor? Ce l'ho e molto. E quando lo dimostra? Non quando canto, perché ho un tipo di voce drammatica e mi portano solo canzoni drammatiche. La donna per me di questa unica puntata è Ornella Vanoni. Poi finalmente, mano a mano, con una tigna tremenda, con una volontà che mi ha... Vi siete avvicinati. Pezzata, perché ho fatto una fatica tremenda, perché ogni volta che dovevo affrontare il pubblico io morivo, cioè ma ce la farò un giorno o l'altro. E piano piano sono abituata a me. Si sono abituati loro a me e io a loro, io mi sono lasciata un po' andare. Ed è vero, bisogna lasciarsi un po' andare col pubblico. Vorrei proprio sapere che cosa hanno tutti da dire, che cosa hanno da fare, uscire, entrare, stare, stare, se in fondo per me. Dici, taci, piaci, faci, senza sapere perché. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piace per una bugia. La gente si trova, si tocca, si prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piace per una bugia. Quello di Ornella Vanoni è un temperamento impetuoso che non la manda a dire neppure ai critici, che negli anni 60 si spoglia degli abiti neri della mala per vestirsi colorato e tuffarsi in quello che rimane dell'euforia degli anni 60. Lungo la sua strada fa incontri fortunati come quello con Tenco, Lauzi, il grande amore con Gino Paoli e i successi indimenticabili con Senza Fine. Che cosa c'è? La musica è finita. Così racconta Paolo Limiti. Erano momenti in cui si stava tutti insieme, cioè ci si conosceva tutti, si facevano le canzoni, hai sentito quella? Sì, però è più bella quell'altra. Si andava dagli editori, ti incontravi dagli editori, ne entrava uno e usciva l'altro. E perché hai scelto Milano per questo tuo nuovo debutto? Beh, perché Milano è la mia città e io qui mi sento più coccolata che nelle altre. Poi mi ha sempre portato molto buono. Trovi che il pubblico di Milano sia un pubblico caldo? Beh, con me sì, sempre. Io non moltissimo. Scopro che c'è un mondo diverso, divertente, che potrei entrarci anch'io. E così incontro Paoli. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. E il Gino, quando l'ho incontrato, era uno sconosciuto. Io ho sentito mettere lui che suonava un pezzo, ho detto che bravo, mi scriverebbe un pezzo. Lui mi ha detto forse. E ha scritto Senza Fine. Senza fine. Tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare. senza fine, sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine, non mi importa. Senza fine, insieme a Gino Paoli, Ornella Vanoni raggiunge il grande successo. In scena la coppia emana un grande fascino. Quello che è stato per me lo si può intuire e lo si può soprattutto sentire dalle canzoni che canto, quando canto con lui o anche quando canto senza di lui. Una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me, a chi tu amerai dopo di me. Mi sono dimenticata la voce. Bravo Ornella, stupenda. Ti passo un attimo Gino. Brava, sei bravissima. Dice lei ha imparato tutto, io non ho imparato niente. No, hai imparato. L'emozione mi sopraffà ancora. Ma per la canzone dici? Un insieme di cose, caro. Ciao Ornella, grazie. Di Mino Reitano Ornella interpreta Una ragione in più. Nel 1964, al Festival di Napoli, tu sei una cosa grande. Così racconta il giornalista Gigi Vesigna. Forse è la sua voce così diversa, così caratteristica, che stimola la creatività degli autori. Perché se no non si spiega in altro modo, perché è vero, questo qui è peggio dell'arco costituzionale, perché da Minoritano a Dario Fo non si può pensare ad altro. Io mi annoio così in qualsiasi cosa, cioè a me piace divertirmi, cambiare, sentire, poi perché negare una cosa? Se è bella, è bella, se è una bella canzone, è una bella canzone, l'ha scritta uno che fino allora è sempre stato trattato a pesci in faccia, a me non mi importa, io la canto. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Ornella Vanoni. Grazie, hai detto il mio nome, il mio cognome, penso che per te sia stato un grosso sforzo. Ecco, infatti guarda, è la prima cosa che dico in questa trasmissione. Senti, amici da tanti anni, no? Amici da dopo la guerra. Vabbè, non credo, senti Luigi. Comunque dal mio primo disco, no? Ti ricordi, ti abbiamo preso di peso e tu hai dovuto suonare il sax. È una cosa della quale ti sono grato perché è l'unica volta che mi hanno fatto suonare il sax. Era io. Se qualcuno ti dirà, ti ricordi? Anche se qualcuno ti dirà che lontana di me ti cherò le dolcissime cose sospirate tra i baci. Una voce suadente, particolarissima, un'intelligenza acuta che governa le scelte di una carriera imprevedibile. Se la canzone resta sempre nel cuore di Ornella Vanoni, i suoi interessi la portano anche su altre strade, teatro, cinema, televisione. accanto a Strehler naturalmente, ma anche a Nino Manfredi, a Giorgio Albertazzi, a Walter Chiari, a Pino Caruso, Gigi Proietti, Ugo Tognazzi. Dall'indimenticabile Mulino del Po di Sandro Bolchi a una straordinaria Rosetta nel Rugantino di Garinei e Giovannini. Così risponde agli studenti che la intervistano negli anni 70. Io vorrei sapere quale di queste tre attività le dà più soddisfazione: un long plan, un recito teatrale oppure una commedia musicale come il Rugantino? Beh, sono tre cose molto diverse. Il long plan ti dà soddisfazione nell'attimo in cui lo fai, lo crei, finito il prodotto non ti interessa più. Lo spettacolo diretto così di canzoni, dove io per esempio canto per 2 ore da sola, è molto bello perché è una specie di vittoria tutte le sere, se è successo con il pubblico è un dialogo diretto, una soddisfazione particolare. Rugantino, che non è la mia unica esperienza teatrale perché ho fatto anche prosa, è una forma di spettacolo che a me particolarmente non interessa più. Lei no, tutte meno lei, capito? La snizza, non la dovete toccare. Avendolo visto il Mulino del Po, no? Gli voglio porre questa domanda: se si sente più attrice o cantante? Io ho iniziato la mia carriera come attrice e ho fatto l'attrice seriamente per alcuni anni. Poi sono passata alla canzone e mi dedico seriamente come professionista alla canzone. Sono due cose che amo in uguale maniera. In questo momento particolarmente di più la canzone la sento di più, altrimenti farei l'attrice. C'è qualcuno che piace a noi e piace a voi, con il suo fascino, con la sua musica, la bella Ornella Vanoni. Ho fatto moltissima televisione quando la televisione era fatta in modo diverso, cioè si creava il mito. Falqui per una canzone ci metteva anche 2 giorni di impostazione, cioè ti girava intorno, ti prendeva l'occhio, il dito, la mano, cioè creava una personalità, un personaggio. Era tutto diverso. Gli studi erano solo per quel programma. L'incontro con Sergio Bardotti, produttore chiave della sua carriera, gli fa scoprire Tuchigno e Vinicio De Moraes. Così ricorda la stessa Ornella. Certo, Bardotti è una grande mancanza, cioè apparteneva all'epoca delle grandi passioni, sai? Le grandi passioni per la musica, poi si stava insieme, si andava in vacanza magari 20 giorni, ognuno con il proprio compagno, e si scriveva, si rideva, si mangiava e si scrivevano delle belle canzoni. Poeta mio, poeta vagabondo, sei un cattivo esempio per la gente come noi. A fare come te si può scoprire che vivere non è cercare del perché, ma usare la bocca, gli occhi e il cuore. Ma Vinicius è un'esperienza grande, umana soprattutto, perché era un poeta della vita, come tutti i veri poeti, soprattutto i veri poeti, quelli che amano le donne, amano bere, amano divertirsi, amano l'amicizia, non quelli noiosi. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme a te. A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori commenti perché cerchiamo insieme tutto il... La voglia, come si chiama il mio disco? Ah, ecco. La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. Ecco, te l'avrei chiesto il titolo perché... Il titolo che racchiude praticamente il significato di questo disco. Tochigno e Vinicio De Moraes cambiano qualcosa in lei, che con loro inaugura e percorre una lunga stagione brasiliana. È adorata anche in Brasile, fino al lutto per la morte di un amico. Io senza te ho perso anche me. Vinicio De Moraes si spegne a Rio de Janeiro nel luglio del 1980. Io sento presente, non so, non riesco a pensarlo morto, non è morto per me. Ho paura di vivere senza te. Ho paura di vivere senza te. Amico che se ne va, un pubblico che cambia e con cui forse è più difficile trovare sintonia. Graffi nel cuore che segnano un'anima inquieta e che aprono la porta al male oscuro. Ma Ornella è la Vanoni di sempre, combattiva, vulcanica, tenace. Anche la depressione viene affrontata a viso aperto. Rieccoci su Radio 24 con la storia di Ornella Vanoni, una vita di successi che si alternano a momenti bui, che Ornella affronta anche attraverso il dialogo con il suo pubblico. La musica, insieme al legame con il figlio Cristiano, l'aiutano a rinascere più forte di prima. Così la testimonianza di Mauro Coruzzi in arte Platinette. Sarà che mi piace pensarlo, che mi piace saperlo che ci sei. Sarà che mi piace sognarlo, che mi piace immaginarlo che ci sei. Tu che allunghi una mano al di là del cuscino, tu che mi tocchi piano e ci sei. E mi dici ti amo, mi sussurri facciamo l'amore. Con suo figlio, credo sia un rapporto fondamentale nell'esistenza di Ornella. Credo che oggi sia un rapporto più tenero e anche più praticabile di quanto non lo sia stato in passato, e questo abbia contribuito anche alla svolta di un'Ornella di questi tempi molto divertente, molto comica, molto serena, molto equilibrata, ecco. Ricordo un bambino un po' malandrino. Ornella interpreta benissimo, nel senso che tu pigli una canzone di Roberto Carlos, Vinicio De Moraes, di Luigi Tenco, e Ornella la fa sua. Che vorresti parlare, che vorresti parlare, non sai cosa dire, ma non sai cosa dire. È finito l'amore, finito, e tutto questo è poesia. Lei personalizza, ma al tempo stesso non snatura la canzone com'era. Diciamo che la personalità è molto forte, e quindi qualsiasi inflessione, qualsiasi ritardo, qualsiasi accelerazione, qualsiasi sottolineatura che Ornella fa, e ne fa tante, ne fanno una canzone di Ornella. Ma Ornella Vanoni viene sopraffatta da una forte depressione. È la fine degli anni Ottanta. Nell'89 partecipa a Sanremo con il singolo Io come farò. Mi sento fuori posto, faccio fatica a crescere. Ripeto la mia parte, ma ormai non so più crederci. Questa bambina che mi nasce dentro non ha pietà. Prende i miei giorni e li traduce in fantasie. Un sorriso pagliato stavo malissimo, non bisognava andare. Perché non bisogna andare in televisione quando si è depressi, si vede, è come un attacco la televisione, bisogna stare molto attenti. Uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, mi lancio che non ho guardato mai. Ma la depressione è una malattia molto seria, che la gente capisce poco e comincia a capirlo adesso perché se ne parla, perché la gente si vergognava di essere depressa. Intanto il depresso si vergogna di vivere, di essere al mondo. E poi, siccome è una malattia che non si vede, la gente dice tu stai giocando. Soprattutto è molto difficile stare vicino a un depresso. La solitudine che il depresso sente è il distacco che lui ha dal mondo esterno. Si crea un distacco, non corrisponde più la realtà alla tua solitudine, che è dovuta al non sentirsi più partecipe delle foglie, del vento, dell'aria, del cibo, degli amicizie, degli occhi magari che ti guardano amandoti, tu non vedi questo amore. E questo è terribile, è un dolore atroce. Bella, elegante, elegantissima, sprizzando simpatia da tutti i pori come un annaffiatoio, Ornella Vanoni. Il tuo modo di cantare, sì. Ecco. Proprio questi. Dunque, tu piano piano lo hai, non dico accentuato, ma è diventato uno di quei famosi, se vogliamo dire, difetti che fanno la personalità di una persona. Come e perché? Ecco, perché io penso che la lingua italiana sia piena di ZR, e siccome mi danno fastidio, le questa tristezza, questa pigrizia di pronunciare bene le ecco, questa pigrizia. E poi mi sembra che sia più musicale. Acquista musicale. Ognuno ha le cose sue, Mina c'ha le I, e io c'ho ognuno. L'hai detto in senso dispregiativo? No, dicevo che ognuno ha le sue cose. No, tu l'hai detto in senso dispregiativo. Oh, no! Quello tra Mina e Lavanoni è un altro eterno duello del dopoguerra, come Coppi e Bartali, come la Loren e la Lollobrigida, ognuno con i propri fan irriducibili, come chi sostiene le ragioni vocali di Mina contro la particolarità del talento della Vanoni. Ci si conta tra gli appassionati, ma intanto, come in un duetto immaginario, dall'una e dall'altra parte rimbalzano melodie che fanno grande la nostra musica. Così la descrizione di Platinette. Sono due aspetti dell'Italia del dopoguerra ugualmente interessanti, e sono non a caso due donne, senza pregiudizio geografico, però del nord, molto istruite, appartenenti a famiglie benestanti, che hanno scelto però carriere differenti rispetto a quelle della famiglia di origine. Questo in un qualche modo, ecco, più che amiche o nemiche, le fa paradossalmente sorelle. Di Ornella è bella la commistione tra il ruolo di interprete da una parte e di cantante dall'altra, non essendo però una cantante pura. Mina è una cantante pura. A cena andresti più volentieri con Milva o Ornella Vanoni? A cena? Con Ornella, perché la conosco di più e così sul piano umano mi è molto più simpatica. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno. Che inutile serata, amore mio. Ho aspettato tanto per vederti, ma non è successo niente, niente. Sono pochi gli uomini che amano le donne. Tutti dicono, no, io le amo molto. No, non le ami, ci fai l'amore. Bergman le ama. Dice, ma allora è un po' frocio. No. Ha soltanto accettato quel suo lato femminile come io ho accettato il mio lato maschile. Quelli tutti uomini e quelle tutte donne sono insopportabili, di fatto bisognerebbe sopprimere. Trasgressiva e sensuale, Ornella Vanoni è all'apice del successo, come racconta Mario Luzzato Fegiz. Vanoni trasgressiva e sensuale. Io me la ricordo, la prima volta che la vidi fu alla Rai di Roma in via Asiago e venne come ospite per voi giovani col maestro Simoncini che l'accompagnava al piano in diretta. Avevo un vestito aderente, non usava biancheria intima, questo ci mandò letteralmente a me, a Paolo Giaccio, che conduceva il programma, ci mandò letteralmente in tilt. Beh, certo, questo è stato un incontro e che incontro con Gil Evans, veramente un omino straordinario. Non riuscivamo a farlo camminare davanti, voleva stare sempre dietro, non so, diceva che aveva una visuale migliore. L'altra caratteristica di Ornella è questo suo contatto diretto. Lei chiama una casa e dice: dunque, allora comincia a parlare senza dire buongiorno, sono Ornella, come stai, eccetera, eccetera. Poi la cosa buffa è che varia molto il suo tono a seconda che a rispondere a casa sia un uomo o una donna. Se risponde una donna, che può essere la moglie, una colfa o una figlia, lei dice: c'è Mario, per favore? Se invece risponde un maschio, per esempio mio figlio, dice: pronto? Sei Paolo? Ah! Sei figlio di Mario, come stai? Stai bene? Sì, bene. A scuola bene? Ecco, mi passi il papà per favore. Certo che no, non sai, non sai, non sai fare l'amore tu. Pensare che c'è tutto in te. Bentornati su Radio 24, stiamo ripercorrendo la carriera di una grandissima voce della musica leggera italiana. Negli ultimi anni Ornella Vanoni stringe un'importante amicizia con il produttore Mario Lavezzi, che la guida nelle sue tournée da tutto esaurito. Così la ricostruzione di Platinette. Gli autori di Ornella sono un po' i suoi amori, credo. Vabbè, a parte quello con Paoli, talmente noto a tutti, con i risultati che sappiamo dal punto di vista artistico. Sono gli uomini che Circe deve un po' guidare, ma che poi in realtà sono quelli che guidano lei. Il rapporto con l'ultimo, insomma, che è quello con Lavezzi, che le sta vicino da diversi anni, sembra un rapporto al contrario, nel senso, no, che è lui in realtà che dice a Ornella, no, sugli attacchi, gli ingressi nelle canzoni. Se c'è, dicono gli esperti, un lato tecnico in cui Ornella è debole, invece secondo me è molto forte, è quando sbaglia gli attacchi delle canzoni. Quando le fai così e devi partire, ho sbagliato tante volte, ho sbagliato. Lei invece sa benissimo quando andare dentro. Ho idea che fingo di non saperlo. Però questo genera un rapporto tra l'autore, il musicista e lei, di un reciproco meraviglioso gioco. Arriva Mario Lavezzi. Ma so se io so, sono qua. Siamo amici, lavoriamo insieme, viviamo anche vicini. Adoro Mario, mi è molto simpatico. Ti porta amore. Ti porta amore. Guarda lì. Questa è una canzone che le avevo proposto da 2 anni prima e lei non la fece, perché probabilmente sempre per quel suo modo di cercare e volontà di ricercare delle canzoni di un certo tipo, questa la vedeva un po' troppo semplice, un giro armonico normale la vedeva troppo semplice. Io gliel'ho ripresentata e gli ho detto: secondo me questo, se tu la fai, è un successo. Litighiamo molto sulla scelta dei pezzi. Litigare no, perché litigare con Mario è praticamente come l'acqua, Mario, prende la forma che più gli conviene. Diciamo che io sono l'anima più pop, no? Per me comunque un obiettivo da raggiungere è quello di altrettanto raggiungere il più vasto pubblico possibile, no? invece l'anima, no, è la parte che tira per un elitario, no? Però certe volte comunque ci incontriamo, no? Ci incontriamo e condividiamo. Oh ragazzi, non mi piace dentro così, dai. Come era lì? Come era una volta? Non mi piace neanche a me, hai fatto tu questo qui? Cosa? Questo nuovo intro. No, abbiamo pensato insieme, ma non mi piace. Io voglio riposare un attimo, scusate. Più di 50 anni di carriera per un successo davvero senza fine, eppure le sorprese di Ornella Vanoni non finiscono mai. La maturità le porta una nuova intensità di interpretazione, ma anche una ricerca interiore che prende strade impreviste. Così la testimonianza del critico musicale Luzzato Fegiz. Prega e fa volontariato nella chiesa evangelista, dove tra l'altro c'è una pastora che è metà tedesca e metà brasiliana, e che riesce a dare questo senso della gioia nella religione che magari nelle chiese cattoliche si trova un po' meno, e lei ci si butta come si butta nelle cose. Gesù, mio amico, e con cui io parlo molto, allora Gesù mi ero consigliata un po', mi faccio consolare così. Ma sai, voglio dire, è una questione anche di incontri, no? Di incontri, ho avuto un incontro con questo pastore Rosel, che se l'incontro che ho avuto anch'io e che ho apprezzato, una persona che aiuta molto le persone. Aiuta molto le persone che hanno delle crisi esistenziali. La religione da una parte, o il professare una fede, e quindi vedere delle persone, come in questo caso, e una buona dinamica di rapporti interpersonali, familiari stretti, credo che siano all'origine del superamento dei tanti momenti difficili. Ti vengo a cercare, il giorno mi pento di averti incontrato, ma la notte io ti vengo a cercare. È già un po' che io parlo con Gesù. Sembro matta, mi dispiace, a me mi consola Gesù, è un amico che mi è molto simpatico. Sei tu. Gente che non è un po' matta di una noia mortale, quel pizzico di follia, guarda, non la follia, quel pizzico di matto, quel pizzico di cambiare opinione, di cambiare, è fondamentale per una vita non noiosa, se no, ognuno a casa sua. Io vorrei che questo fosse il primo di una lunghissima serie di spettacoli, se il destino lo permettesse. Io vorrei arrivare a Ornella 50, un po' eccessivo, sì. Si può fare, ecco, Ornella 48. Comunque l'importante è fare bene questa sera Ornella 1, cercando di essere allegri, scacciando la tristezza.